condizioni, seguire il verso e la corrente di queste nere incomprensioni, del vuoto sceso in noi amaramente, è pieno di contraddizioni, pensare di capirci veramente, rifiutando contro tutte le ragioni di parlare tra di noi direttamente. È pieno di contraddizioni il nostro gioco d'amicizia, finito troppe volte in occasioni di rivalse scure e amarezza, di consigli che avresti mai dovuto dare, dirmi cosa dovrei fare o come dovrei stare, con chi sia meglio dover parlare e quale umore sia giusto avere. Questo vivere sballato fra la gente, sempre in cerca di improbabili emozioni, e lamentarsi poi di non sentire niente, è pieno di contraddizioni, portarsi dentro fedelmente e perdere ricordi e sensazioni, lontano dal controllo della mente. È pieno di contraddizioni, un vecchio voto d'amicizia, opposto troppe volte ad occasioni di rivalse scure e d'amarezza. Capito, tu non mi hai ascoltato, di un pretesto che avevi già inventato, un eco già sentito, un eco già tornato. Di un consiglio che avresti mai dovuto dare, dirmi cosa dovrei fare o come dovrei stare, di un pretesto che avevi già inventato, è un eco già sentito, un eco già tornato.